Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. L'Italia policentrica, il fermento delle città intermedie. È il titolo di un volume edito da Franco Angeli che è stato oggetto lo scorso 7 febbraio di una tavola rotonda organizzata presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio a Roma. Il volume intende offrire un quadro articolato di riflessioni e descrive il profilo di 10 città: Ascoli Piceno, Benevento, Cosenza, Foligno, Lecce, Parma, Pordenone, Ragusa, Rieti e Varese, che sono state selezionate tra altre città intermedie, individuate in base alla dimensione demografica, all'offerta di servizi, alla attrattività turistica e alla vocazione manifatturiera. Il rapporto analizza i cambiamenti demografici, istituzionali ed economici che stanno ridisegnando le dinamiche sociali e che spingono verso una nuova stagione di politiche territoriali da cui partire per interpretare nuove geografie, ed esamina come le città intermedie si stanno attrezzando rispetto alle sfide portate e prodotte da tali processi e quale opportunità hanno per svolgere un ruolo propulsivo per lo sviluppo del Paese. Ne parliamo questa sera con Ledo Prato, segretario generale dell'Associazione Culturale Mecenate 90, che ha coordinato il rapporto. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi e a lei. Allora, ascoltiamo insieme questo passaggio della prefazione di Giuseppe De Rita. Il secondo decennio del 2000, con le sue lunghe crisi economiche, internazionali e domestiche, ha segnato per l'Italia un faticoso, lento e ancora non del tutto espresso cambiamento antropologico. Il riferimento di partenza è il vigore con cui ricostruiamo l'Italia dopo la morte della patria del settembre 1943 e della totale sconfitta dopo la Seconda Guerra Mondiale. E ad oggi siamo approdati a una collettiva inerzia sociale rispetto all'esigenza di rispondere vitalmente alle sfide dell'oggi e del futuro prossimo venturo. Chi va al di là delle cronache di giornata trova tuttavia che qualcosa si sta muovendo. Stanno emergendo due fenomeni interessanti: la crescita di ruolo delle città di medie dimensioni, l'antropologica volontà di vivere bene, senza entusiasmi né rancore. Certo, le città intermedie hanno rischiato, anche di recente, di essere marginalizzate dall'enfasi da anni alimentata sulla primazia delle grandi città metropolitane, ma va ricordato che in esse si cerca invece e si attua uno stile di vita che magari esclude il rigore dello sviluppo e la rancorosa voglia di decrescita, ma si persegue una quotidiana vivibilità dei residenti. Allora, dottor Prato, come si identificano le città intermedie e perché possono avere un ruolo ancor più rilevante per la crescita del nostro paese, certo, una volta superata l'emergenza che stiamo vivendo per effetto dell'epidemia da coronavirus? Intanto noi abbiamo cercato di individuare alcuni criteri sulla base dei quali arrivare a identificare le città intermedie. È bene ricordare che questo è il primo rapporto dedicato alle città intermedie. Purtroppo in Italia questo tema è rimasto molto ai margini dell'analisi e della valutazione, oltre che delle politiche pubbliche. Quindi noi abbiamo dovuto fare i conti con la individuazione di una serie di criteri per arrivare a definire il perimetro delle città intermedie. Abbiamo usato 5 criteri sostanzialmente. Il primo, molto semplice, cioè il comune dal punto di vista della sua definizione amministrativa. Poi ci siamo riferiti come secondo criterio agli enti territoriali non metropolitani, quindi per comodità i comuni non metropolitani. Quindi abbiamo lasciato sullo sfondo le città metropolitane. Il terzo criterio è stata la dimensione demografica. Siamo partiti dall'idea che la base per valutare carattere intermedio delle città potessero essere poco meno di 25.000 abitanti. La dimensione demografica naturalmente è un quadro di riferimento necessario per individuare i territori. Mm-hmm. Poi abbiamo ancora utilizzato un criterio più selettivo, e cioè abbiamo identificato le città che avessero una presenza o un'accessibilità ai servizi essenziali da parte dei cittadini. E infine abbiamo preso a riferimento i sistemi locali del lavoro, che, come diciamo, è noto, l'ISTAT adotta per identificare degli ambiti territoriali, e qui abbiamo, diciamo, utilizzato questo criterio per individuare i punti centrali dei sistemi locali del lavoro. Da tutta questa elaborazione, combinando tutti questi criteri, abbiamo identificato un universo di 161 comuni. Sì. In questi 95 sono comuni non metropolitani, capoluogo di provincia, 39 sono comuni non metropolitani, che hanno una presenza o un'accessibilità ai servizi di base piuttosto importanti, e 27 sono comuni non metropolitani con una presenza, accessibilità ai servizi di base, ma sono anche il centro di un sistema locale del lavoro e con una specializzazione produttiva che è prevalentemente manifatturiera. Ecco, ma lei, dottor Prato, nell'introduzione al rapporto sostiene che nelle città intermedie convivono imprese innovative, start-up con specializzazioni territoriali che hanno raggiunto livelli e profili internazionali. Dunque è un punto di forza che oggi vale la pena di... Assolutamente sì. E le faccio qualche esempio per rendere più chiaro il nostro ragionamento. Cioè, Parma, per esempio, è nota, credo, ormai a livello mondiale per essere il luogo dove è insediata la più grande filiera agroalimentare di questo nostro paese, a cui si associano peraltro aziende farmaceutiche e anche della cosmesi che operano sui mercati mondiali. Ragusa si caratterizza per avere una specializzazione nel settore lattiero-caseario, per il riciclaggio e il trattamento dei teloni di plastica. Foligno, per esempio, una delle 10 città che non è capoluogo di provincia, c'è un polo aerospaziale, come sappiamo, con imprese che operano sui mercati internazionali. Solo consideri che il polo di Foligno sta dentro un polo più grande, quello dell'Umbria, che ha circa 28 aziende, 3.000 dipendenti e 400 milioni di fatturato. Infine, mi pare importante sottolineare l'esperienza di Pordenone, dove è nato la più grande fabbrica modello, che è la Digital Innovation Hub, che è diventato un punto di riferimento per il trasferimento del know-how, delle tecnologie, della formazione del personale alle piccole e medie imprese. Pensi che questa fabbrica oggi è un riferimento a livello internazionale, arriva gente da tutto il mondo per frequentare i corsi e vedere come concretamente è possibile che applicare queste, diciamo, tecnologie per, certo, migliorare la competitività. Non è irrilevante, dottor Prato, ricordarlo oggi, perché questi sono punti di forza che costituiscono anche una speranza per il nostro paese di uscire in fretta dalla crisi drammatica che stiamo vivendo per effetto dell'epidemia, la crisi economica. Insomma, ecco, il nostro paese ha dei punti di forza da cui si può partire, e insomma il messaggio è: ce la faremo. E io confido molto anche in tutte quelle iniziative, soprattutto dei giovani imprenditori. Questo nostro rapporto ha svelato un mondo di start-up che ovviamente ha tutti i limiti, ma anche grandi potenzialità cui bisognerebbe tener conto, e abbiamo trovato queste esperienze anche in luoghi che non avremmo mai immaginato potessero ospitare esperienze innovative di questo tipo. Ad Ascoli Piceno, per esempio, c'è una startup UB che si è inventata questa nuova tecnologia della Live Fidelity, che, diciamo, ha consentito di utilizzare la trasmissione dei dati attraverso la luce a LED. Se considera che questa applicazione poi è stata utilizzata per fare e organizzare un percorso esperienziale a Pompei e valorizzare così i beni culturali, è sicuramente, diciamo, un fatto, come dire, importante, di dimensione ormai internazionale. E oltre a questa esperienza, a Ragusa abbiamo trovato una startup innovativa che punta a innovare il mercato introducendo nel processo produttivo della plastica biomasse agroindustriali al posto degli additivi. Questi ragazzi sono stati bravissimi perché hanno cercato, diciamo, di sostituire gli additivi con gli altri scarti agricoli in polvere, e ancora, diciamo, abbiamo visto un'esperienza interessante a Rieti, altra realtà piuttosto marginale, Reset, che è una startup innovativa impegnata nel la innovazione e la cogenerazione da fonti rinnovabili. Insomma, diciamo che per queste ragioni, insieme al Presidente De Rita, abbiamo ritenuto utile sottolineare due punti: che l'innovazione non ha confini, sì, e che diciamo lo storytelling di questi anni, che pensava di identificare nelle grandi città metropolitane o nei piccoli centri i due elementi che caratterizzavano la vita economica, sociale e culturale del nostro paese, si è rivelato sostanzialmente non fondato su basi scientifiche. Quindi il tentativo che abbiamo fatto è di ricordare all'Italia che tutta la sua storia è segnata dal policentrismo. Esatto, esatto. E questo è un tema fondamentale, dottor Prato. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, averci condotto per mano, come dire, su questa Italia policentrica, cioè il fermento delle città intermedie, e su quanto questo fermento possa costituire un tessuto connettivo per far ripartire al più presto il nostro paese. La ringrazio ancora, le auguro buona serata, dottor Prato. Grazie a lei. Allora, grazie ad Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione, cari ascoltatori, alla settimana prossima. Buona serata a tutti.